famiglie sono diventate, diciamo, degli acrobati della spesa, degli scienziati, sono in crisi, il potere d'acquisto, come diceva lei, è fortemente diminuito e quindi la disponibilità all'acquisto è fortemente diminuita e abbiamo un calo dei consumi che è molto importante, quindi è matematica, meno reddito disponibile e meno consumi. Meno consumi vuol dire meno produzione, vuol dire meno lavoro, meno investimenti. Ecco, noi facciamo una fotografia dove cerchiamo di dire la crisi italiana dell'economia che è in recessione batte sulle famiglie italiane, sui consumi, e quindi è una crisi che va rilanciata perché è un volano fondamentale quella della ripresa dei consumi. Senza ripresa dei consumi non c'è ripresa dell'economia. Quindi noi diciamo attenzione, le famiglie italiane spendono meno, sono molto più intelligenti, sprecano molto meno, quindi quantità e volumi di spesa in meno, ma anche una spesa più intelligente che tenga comunque il prezzo in termini di convenienza come elemento importante, ma salvaguarda anche dei valori, di qualità, di salubrità. E quindi noi dobbiamo essere capaci di intercettare questa tendenza di consumi che è in diminuzione, che però è una tendenza anche rigorosa e intelligente.